Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! Da gennaio ad aprile del 1851. La Romagna esce dall'incubo, ucciso in un conflitto a fuoco il brigante Stefano Pelloni, lo chiamavano il passatore. Scontro nel governo sabaudo tra Cavour e D'Azeglio, il conte ottiene il Ministero delle Finanze. Dubbi austriaci, ma poi va in scena tra gli applausi a Venezia il Rigoletto di Verdi. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. In apertura di questa edizione la cronaca con l'operazione di polizia che ha portato all'uccisione del brigante più famoso d'Italia. Il cadavere lo hanno caricato su una carretta e trasportato in tutta la Romagna per far vedere che era davvero morto. La vicenda di Stefano Pelloni, detto il passatore perché figlio di un traghettatore, è finita il 23 marzo, come era normale che finisse la vicenda di un bandito. Tradito da una spiata e uccisa a 26 anni dal sussidiario della Gendarmeria Pontificia Apollinare Fantini in uno scontro a fuoco al capanno di caccia del Podere Molesa, nei pressi di Russi. Sul passatore, si sa, sono fiorite leggende. Lo hanno descritto come una sorta di Robin Hood perché colpiva i ricchi, i borghesi, in una terra affamata in cui il 20% della popolazione ricorre all'accattonaggio e perché pagava spesso l'appoggio di cui a volte godeva sul territorio. Persino Garibaldi, abbagliato dalla sua lotta ai gendarmi del Papa, lo ha considerato un ribelle da ammirare. Ma i fatti dicono altro. Nei suoi anni di brigantaggio, iniziati dopo un'evasione, ha commesso delitti di un'efferatezza senza pari. Una presunta spia fatta letteralmente a pezzi, altre decapitate e oltraggiate. Uccideva con un sadismo elementare, feroce e brutale, che stridono con l'immagine idealizzata di ribelle che si sta diffondendo in una terra mal governata e afflitta da diseguaglianze terribili e da oscene prevaricazioni degli ambienti sui poveri. Era un violento criminale dedito sistematicamente a rapine, omicidi e stupri. La tecnica dell'occupazione quasi militare di alcune località romagnole ha alimentato l'equivoco. L'ultimo caso, quello di Forlimpopoli, è del 25 gennaio, ma i particolari non sono noti a tutti. Piombati nel locale teatro a metà di una rappresentazione, i briganti del passatore hanno prima rapinato i presenti facendo l'appello, poi hanno stuprato alcune signore. Una di loro, Gertrude Artusi, è impazzita per lo shock. Paolo Piacenza al Gazzettino del Risorgimento, Radio 24. E siamo alle tensioni all'interno dell'esecutivo sabaudo. Il capo del governo D'Azeglio si è convinto, su pressione di Camillo Benso di Cavour, ministro dell'agricoltura, a concedergli anche il dicastero delle finanze, dove sostituirà il banchiere senatore Giovanni Nigra. Nigra ha gestito finora un parziale riassetto delle finanze sarde, negoziando dei prestiti a Parigi con i Rothschild. Cavour si preparerebbe a muoversi in altre direzioni per rompere la dipendenza da questi banchieri, ai quali Torino deve pagare pesanti oneri sul debito. Voci bene informate a Londra parlano di trattative avviate con una piccola banca, la Hambro, per finanziare due linee ferroviarie, la Genova-Torino e la Torino-Lago Maggiore. Questa quella per me pari sono, a quant'altre d'intorno, d'intorno mi vedo. Nonostante i dubbi austriaci, è andata infine in scena, tra applausi scroscianti, alla Fenice di Venezia la nuova opera di Giuseppe Verdi. Si chiama Il Rigoletto ed è tratta da Le Roi s'amuse di Victor Hugo. L'opera era pronta da novembre, ma il governatore militare Gorzowski l'ha finora bloccata. Poi si è risolto a dare il via libera, ma chiedendo modifiche. La scena si è spostata dalla Francia ad un ducato italiano, rigorosamente non asburgico, e i nomi sono stati cambiati. È tutto per questa edizione del Gazzettino del Risorgimento. Andate sul nostro sito www.radio24.it e scaricate il nostro foglio quotidiano. Visitate la nostra pagina Facebook, il nostro blog. Scriveteci a gazzettino@radio24.it. Da Simone Spezia, che ha condotto questa edizione e l'ha curata insieme a Paolo Piacenza, una buona giornata.